Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge Caro Michele di Natalia Ginzburg. Novi, 29 marzo 1971. Cara Angelica, forse ti meraviglierai se ti scrivo da Novi Ligure. Sono arrivata ieri. Siamo qui, io e il bambino, in una casa di una serva dei miei cugini. Mi ha messo un materasso in cucina. È vecchia, si chiama Amelia. Ha detto che posso restare per qualche giorno, ma non più di qualche giorno perché non ha posto. Non so dove andare. Ma non ha molta importanza, perché un posto dove cacciarmi finisce che lo trovo sempre. Me ne sono andata via improvvisamente. A Fabio ho lasciato un biglietto, lui non era in casa. Ho scritto, me ne vado, grazie, ciao. La pelliccia l'ho presa, perché me l'aveva regalata, e poi perché avevo freddo. La gonna nero e argento, quella che avevo in casa di tua madre, l'ho presa pure. Tanto lui non se ne faceva niente. E poi erano regali. Ti vorrei pregare di un piacere. Nella furia di partire mi sono dimenticata il mio kimono, quello nero con i girasoli. Vai a prenderlo e spediscimelo qui, a Novi Ligure, via della Genovina 6. Deve essere in camera nostra, nell'ultimo cassetto del comò. Mi accorgo che ho scritto camera nostra, perché in quella camera per qualche tempo lui e io siamo stati felicissimi. Se la felicità esiste, quella era. Solo che è durata poco. Si vede che la felicità dura poco. L'hanno sempre detto tutti. Tu dirai che è strano innamorarsi di un uomo così, niente bello, con quel grande naso, un pellicano. Avevo da bambina un libro con tutte le figure di bestie e c'era un pellicano con le zampe corte piantate in terra e con un enorme becco rosa. Quello è lui. Ma io ho capito che ci si può innamorare di qualunque persona, anche buffa, strana. Triste. Mi piaceva che avesse tanti soldi, perché tutti quei soldi che aveva mi sembravano diversi da quelli degli altri. Mi sembrava che stessero dietro a lui come la coda di una cometa. Mi piaceva che fosse così intelligente, che sapesse un mucchio di cose che io non so, e anche la sua intelligenza mi sembrava lunga come una coda. Io sono senza nessuna coda. Sono stupida e povera. In principio, quando ho conosciuto il pellicano, io ho pensato delle cose niente belle e niente sentimentali. Ho pensato, adesso questo qui me lo bevo come un uovo a bere. Gli consumo i suoi soldi, lo soffio a quella cretina di Ada, mi piazzo in casa sua col mio bambino e nessuno mi smuove più. Ero fredda, tranquilla, allegra. Poi a poco mi si è messa dentro una gran malinconia. Tutta questa malinconia, lui me l'aveva attaccata, come si attaccano le malattie. Io me la sentivo nelle ossa anche quando dormivo. Non riuscivo a liberarmene. Ma lui con la sua malinconia è diventato molto più intelligente. E io invece, con la malinconia, sono diventata ancora più stupida. Perché la malinconia non è mica per tutti la stessa cosa. Così mi sono accorta che ero cascata in una trappola. Ero innamorata morta di lui. E lui se ne infischiava di me. Era stanchissimo di avermi nei piedi, però non aveva il coraggio di sbattermi via perché gli facevo pena. Anche lui mi faceva una pena immensa. Era faticosissimo vivere in mezzo a tutta questa pena, faticosissimo per lui e per me. Ti dirò che anche di Ada lui deve essersene sempre infischiato, solo che lei era forte, robusta, ottimista, con mille cose da fare, niente appiccicosa. Io invece ero per lui pesantissima e appiccicosa. Se ne stava là perso nelle sue malinconie e io ho capito che nelle sue malinconie non ci sarei entrata mai, perché lì non c'era posto per me. Questo mai mi sembrava spaventoso. Allora me ne sono andata. Quando sono arrivata dall'Amelia ieri sera, l'Amelia era terrorizzata. Non sapeva niente di me, non mi vedeva da 3 anni. Non le avevo mai scritto neanche uno straccio di cartolina. Non sapeva che avevo avuto un bambino. Guardava il bambino, la pelliccia, non capiva niente. Le ho detto che avevo avuto un bambino con un uomo che poi mi aveva piantata su una strada. Le ho detto di darmi da dormire. Ha tirato giù un materasso da un armadio. Le ho detto che avevo fame e mi ha dato la cena. Un uovo fritto e un piattino di fagioli. Ho capito che mi lasciava stare lì perché le facevo pena. Qui si passa la vita a farsi pena gli uni con gli altri. L'Amelia di giorno va a cucinare dai miei cugini. Sono in tanti e c'è molto da cucinare. Gli ho detto di non dire niente di me ai miei cugini, ma invece lei gli ha detto subito che ero arrivata e stavo da lei. Così mi sono vista capitare 2 mie cugine con mio fratello, quel mio fratello di 12 anni che sta con loro e li aiuta un po' nel negozio. Gli voglio tanto bene, questo mio fratello, ma lui non è stato affettuoso. Era freddo. Non si è niente stupito del bambino. Non gli ha fatto nessuna festa. Nemmeno le mie cugine hanno fatto feste. Se avessi avuto in braccio un gatto, gli avrebbero fatto più feste. Le mie cugine invece si sono interessate alla pelliccia che hanno visto distesa su una sedia. Hanno detto che io con quella pelliccia potevo tirare avanti anche degli anni se l'avessi venduta. Ho capito che progettavano di comprarmi la loro. Ma io ho detto che non avevo nessuna intenzione di venderla per adesso. Sono affezionata alla mia pelliccia. Mi ricordo quel giorno che siamo usciti per comprarla, io e il pellicano per mano, e lui ancora sembrava contento di camminare nelle strade con me. Forse cominciava già a pensare che ero un poco appiccicosa e pesante, ma io ancora non mi ero accorta che lo pensava. Se ti chiede il mio indirizzo, il pellicano, tu glielo puoi dare. Ti abbraccio, Mara. Aprile 1971. Cara Mara, Angelica è venuta a prendere il tuo kimono. L'abbiamo cercato a lungo perché non era nel cassetto in camera da letto. Era finito nel mio studio, sotto una catasta di giornali. Era polveroso e non sapevo se dire a Belinda di lavarlo, ma non volevo ricordare a Belinda la tua persona. Lei ha distrutto rapidamente ogni traccia del tuo passaggio, la mattina dopo che tu sei partita. Ha buttato via le tue creme rimaste nella stanza da bagno e tutte le scatolette di omogeneizzati che il bambino usava mangiare. Io le ho detto che a me gli omogeneizzati piacevano, ma mi ha detto che quelli erano omogeneizzati di una qualità scadente. Il tuo kimono, Angelica, l'ha un po' spazzolato con la mano e scrollato e ha detto che te lo spediva così. Ti mando dei soldi perché penso che ne hai bisogno. Angelica ora è andata a San Silvestro, dove ti spedirà il kimono e farà un vaglia telegrafico. Ti sono profondamente grato di essere andata via. Era infatti questo il mio ardente desiderio e tu l'hai capito, anche perché forse io ho agito in modo che tu potessi capirlo. Queste parole ti sembreranno forse di un'inutile crudeltà. Sono infatti crudeli, ma non sono inutili. Se conservi ancora in profondità qualche buio e confuso proposito di ritornare, sappi che è opportuno che tu lo metti in disparte per sempre. Io non posso vivere con te. Probabilmente non posso vivere con nessuno. Il mio errore è stato di illudermi e di illuderti che fosse possibile un rapporto durevole fra te e me. Io però non ti ho chiamato qui, sei venuta tu. Nella convivenza il nostro rapporto già fragile si è subito spezzato. Comunque, le mie colpe verso di te ci sono e non voglio certo minimizzarle. Esse sono venute ad accrescere il carico delle mie colpe verso la vita, un carico già assai pesante. Ho molta pietà di te e non avevo il coraggio di dirti di andartene. Dirai che sono un vigliacco. E infatti questa è una parola che mi definisce con precisione. Ho molta pietà di te e anche di me stesso. La lugubre pietà dei vigliacchi. E quando sono tornato a casa l'altra sera e non ti ho trovato e ho letto il tuo biglietto, mi mancavi e mi sono seduto nella mia poltrona con una sensazione di vuoto. Però in mezzo a questa sensazione c'era un sollievo ilare e profondo e una gioia ardente che non ti devo nascondere, perché è giusto che tu sappia che l'ho provata. In parole povere, io non ti sopportavo più. Ti auguro ogni bene possibile e spero che tu sia felice, ammesso che la felicità esista. Io non credo che esista, ma gli altri lo credono. E non è detto che non abbiano ragione gli altri. Il pellicano. Leeds, 27 marzo 1971. Cara Angelica, mi ha scritto Mara. Vai a trovarla e confortala. È piena di guai. Quell'editore con il quale convive, oltre ad avere la grande colpa di aver stampato il romanzo Polente Veleno, l'ha contagiata di complicazioni e malinconie. Forse verrà nelle vacanze di Pasqua, ma non ne sono sicuro. Qualche volta ho nostalgia di voi, cioè di quelli che uso chiamare i miei, anche se voi non siete per niente miei, come io non sono per niente vostro. Ma se venissi, voi mi osservereste, avrei i vostri sguardi fissi su di me. Ora io in questo momento non ho voglia di avere i vostri sguardi su di me. Inutile aggiungere che siccome avrei con me mia moglie, osservereste anche mia moglie con attenzione. E si dovreste vedere che natura e qualità sono i rapporti fra mia moglie e me. E anche questo non lo potrei sopportare. Ho molta nostalgia anche dei miei amici, di Gianni, di Anselmo, di Oliviero e di tutti gli altri. Qui sono senza amici. E ho nostalgia anche di alcuni quartieri di Roma. Di altri quartieri e di altri amici ho nostalgia, ma anche repulsione. Quando alla nostalgia viene a mescolarsi la repulsione, succede allora che i luoghi e le persone che amiamo li vediamo situati in una grande lontananza e le strade per raggiungerli ci sembrano rotte e impraticabili. Certe volte la nostalgia e la repulsione sono in me così avviluppate insieme e così forti che le sento mentre dormo e allora mi sveglio e devo buttare via le coperte e sedermi a fumare. Aileen piglia il suo cuscino e se ne va a dormire nella stanza dei bambini. Dice che lei ha diritto alle sue ore di sonno. Dice che ognuno deve arrangiarsi da solo con i suoi incubi. Ha ragione, non ha mica torto. Non so perché ti sto scrivendo queste cose, ma è un momento che mi metterei a parlare anche con una sedia. Con Aileen non posso parlare, prima perché è sabato e in questo momento sta cucinando pietanze per tutta la settimana. Secondo, perché non ama stare a sentire le persone che parlano. Aileen è molto intelligente, ma ho scoperto che tutta la sua intelligenza non mi serve a nulla, perché è indirizzata verso cose che non mi riguardano affatto, come la fisica nucleare. In fondo, preferirei avere una moglie stupida, che mi ascoltasse con pazienza e stupidamente. In questo momento non mi dispiacerebbe avere qui Mara. Non la sopporterei a lungo perché, dopo avermi ascoltato, mi rovescerebbe addosso i suoi guai e mi starebbe appiccicata come una caramella e non avrei più pace. Non la vorrei certo come moglie, però in questo preciso momento non mi dispiacerebbe di averla qui. Ti abbraccio, Michele. 2 aprile 1971. Caro Michele, ho appena ricevuto la tua lettera. Mi ha lasciato una sensazione di angoscia. Evidentemente sei molto infelice. Forse dovrei sdrammatizzare questa tua lettera. Forse dovrei dirmi che tu hai semplicemente litigato un po' con tua moglie e ti senti solo. Ma non riesco a sdrammatizzarla. Sono spaventata. Potrei venire io a trovarti se non vieni tu. Non mi è facile perché non so come lasciare la bambina e Oreste, e poi non ho soldi, ma questo è il meno perché li chiederei alla mamma. La mamma non sta molto bene. Continua ad avere ogni tanto un po' di febbre e naturalmente non le dirò che ho avuto da te una lettera che mi ha spaventata. Se decido di partire, le chiedo i soldi. Le dirò che adesso tu non vieni per questioni di lavoro e così ho pensato di farti io una visita. Tu dici che non vuoi sulla tua persona in questo momento gli occhi delle persone che ti amano. È infatti difficile sopportarli, gli occhi delle persone che ci amano quando siamo in un momento difficile. Ma è una difficoltà che si supera rapidamente. Gli occhi delle persone che ci amano possono essere nel giudicarci estremamente limpidi, misericordiosi e severi, e può essere duro ma in definitiva salutare e benefico per noi affrontare la chiarezza, la severità e la misericordia. La tua amica Mara ha lasciato Colarosa e se n'è andata, mi ha scritto, è a Novi Ligure in casa di una serva dei suoi cugini. Si trova in una situazione disperata, non avendo un luogo dove vivere e non possedendo niente al mondo salvo un kimono nero con i girasoli, una pelliccia di visone e un bambino. Ma ho l'impressione che tutti noi abbiamo una sottile arte nel cacciarci in situazioni disperate che nessuno può risolvere e che non ci consentono di procedere né avanti né indietro. Scrivimi solo un rigo per dirmi se posso venire. Non voglio venire se l'idea di rivedermi ti è intollerabile. Angelica. Leeds, 5 aprile 1971. Cara Angelica, non venire. Devono arrivare da Boston dei parenti di Eileen. Abbiamo una sola camera per gli ospiti. Poi forse andremo tutti a Bruges. Io non conosco Bruges. Anche questi parenti di Eileen non li ho mai visti. Ci sono dei periodi in cui si sta bene con gli sconosciuti. Non fare nessuna ipotesi su di me. Ogni tua ipotesi sarebbe comunque sbagliata, perché ti mancano alcuni elementi essenziali. Mi avrebbe fatto piacere rivederti, ma sarà per un'altra volta. Michele. 8 aprile 1971. Caro Michele, ricevo in questo momento la tua lettera. Ti confesso che avevo già preparato la valigia per venire. I soldi non li avevo chiesti alla mamma, li avevo chiesti a Osvaldo. Contrariamente al solito, lui li aveva senza ricorrere al soccorso di Ada. Mi ha fatto ridere nella tua lettera la frase «Non conosco Bruges», come se Bruges fosse l'unica cosa al mondo che tu non conosci. Volevo vederti, non solo per parlare di te, ma anche per parlare di me. Io pure attraverso un momento difficile. Ma, come tu dici, sarà per un'altra volta. Angelica. Ad alta voce. Anna Bonaiuto ha letto Caro Michele di Natalia Ginzburg. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Chiara Valerio e Lorenzo Pavolini. Per scaricare e riascoltare il programma radio3.rai.it.